Parliamo di lavoro e parliamo di Amazon, perché i sindacati hanno proclamato per il prossimo 26 novembre, in occasione del Black Friday, uno sciopero dei corrieri di Amazon. Ne parliamo con Massimo Colognese, segretario della FILT CGIL dell'Emilia Romagna. Buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, la scelta di proclamare questo sciopero durante un giorno di altissimo guadagno per Amazon è una scelta forte. È una scelta dal punto di vista anche mediatico, perché noi stiamo discutendo con AssoExpress, che è l'associazione che tiene insieme tutte le aziende che si occupano della consegna dei pacchi di Amazon, per un accordo nazionale, quindi è il primo accordo nazionale che metterà tutti sullo stesso piano dal punto di vista della normativa e soprattutto per quanto riguarda gli aspetti retributivi, perché oggi le aziende che si occupano di questa attività hanno qualche volta qualche piccolo accordo, ma spesso e volentieri, soprattutto quelle che nascono, sono pagate semplicemente con il contratto nazionale. Dopo il riconoscimento da parte di Amazon, unico caso al mondo, del contratto nazionale nostro e del ruolo del sindacato nel nostro paese, questo è un passo significativo, importante, proprio per rivendicare che in Italia le norme, le regole per il lavoro ci sono, devono essere rispettate, aumentate e ampliate. La data del 27, lo dicevate giustamente voi, è una data anche simbolica, perché rappresenta un po' un giorno, diciamo, dedicato, anche se sappiamo bene che non è esattamente solo quel giorno, ma un po' dedicato al sistema delle vendite dell'e-commerce, e quindi la giornata scelta è proprio per andare a colpire in un momento molto particolare anche questo tipo di vendita che si sta sviluppando in modo esponenziale un po' dappertutto. Nel marzo scorso c'era stato il primo sciopero di tutta la filiera per denunciare anche un po' quelle che sono le condizioni di lavoro nei magazzini Amazon. Da allora cos'è cambiato? Ma da allora ci sono stati enormi passi in avanti, perché attorno alla metà di settembre è stato sottoscritto con Amazon, alla presenza del Ministero del Lavoro, un accordo che vede, unico caso al mondo, il riconoscimento del contratto nazionale e del ruolo del sindacato. E da lì noi abbiamo cominciato a costruire una piattaforma per i lavoratori che quindi lavorano per Amazon, ma sono dipendenti di aziende a cui viene appaltato questo tipo di attività, in cui naturalmente la prima questione è i carichi di lavoro, cioè quanto sono i pacchi che devono essere consegnate in una giornata, perché effettivamente la gestione attraverso l'algoritmo di questo tipo di attività è una gestione che porta effettivamente a una certa carico di lavoro importante. Quindi la prima questione è legata proprio al sistema di gestione dell'attività, all'organizzazione del lavoro, e poi ne discendono una serie di questioni che vanno dagli aspetti retributivi agli aspetti dell'orario di lavoro. Una cosa importante, per esempio, è contenuta nella riduzione dell'orario di lavoro, che anche questo è un tema, insomma, caro, perché stiamo cercando di investire sulla qualità della vita delle persone che fanno questo tipo di attività. Oggi loro fanno 44 ore settimanali, noi nella piattaforma che abbiamo presentato si parla di 42 a scelta, proprio perché vogliamo anche dare una dimensione un po' più umana a quel tipo di lavoro che è veramente molto stressante. Infatti le chiedo se può farci qualche esempio per capire proprio le condizioni materiali di questi lavoratori, quanti pacchi devono consegnare, cosa chiede l'algoritmo a queste persone? Ma guardi, naturalmente un accordo contiene tantissime cose. L'algoritmo chiede di prestare, a seconda il tipo di zona geografica dove si svolge il lavoro, che può essere una grande città, una città metropolitana o una periferia o una città nelle montagne, per esempio nell'Appennino, dipende, però diciamo che arriviamo anche a punti di 200 consegne al giorno. Poi bisogna capire anche che le 200 consegne sono riferite naturalmente a una situazione ottimale: se c'è un incidente, un problema, maltempo, cattivo tempo come adesso, o addirittura il mercato che attraversa, certamente è una condizione che peggiora il numero delle consegne. Quindi diciamo l'algoritmo è naturalmente un sistema di distribuzione virtuale. Noi invece pensiamo che bisogna tener conto naturalmente che dietro alle consegne c'è una persona in carne e ossa, e anche l'altro aspetto legato alla sicurezza, cioè i mezzi che vengono utilizzati devono essere assolutamente ed estremamente efficienti, efficaci, perché tutte le condizioni di sicurezza di una persona che è in giro dalla mattina alla sera devono essere assolutamente salvaguardate. Altri aspetti sono legati, per esempio, al discorso che loro sono fuori tutto il giorno e quindi non hanno delle pause che sono richiamate dalle ore, dai contratti. per cui devono essere gestite queste situazioni legate alla consegna in modo da permettere al lavoratore che si possa fermare per banalmente mangiare sul panino, fermarsi un attimo, andare a fare i propri bisogni, eccetera. Ci sono tanti aspetti da tenere presente e tutte queste vengono contemplate all'interno della piattaforma che noi abbiamo presentato e per la quale abbiamo proclamato lo sciopero, con il tentativo di arrivare ad un accordo che regolamenti tutte queste condizioni e situazioni a livello nazionale, perché il problema c'è anche nella nascita delle nuove attività, come potrebbe essere Spilamberto a Modena nella nostra regione, o altre attività che stanno nascendo come funghi un po' in tutta Italia, che fanno questo tipo di lavoro ma non hanno delle norme che sono state sottoscritte a livello sindacale. Viene semplicemente, quando va bene, applicato il contratto, e vengono utilizzati anche lavoratori spesso con somministrazioni, quindi legate alle agenzie interinali, o tutti a tempo determinato. Un'altra questione in cui interviene l'accordo, qualora riuscissimo a sottoscriverlo, è proprio la percentuale di queste persone che sono cosiddette precarie, portando ad una condizione via via di stabilizzazione dei rapporti di lavoro, che devono essere naturalmente sempre più, diciamo, diretti verso il tempo indeterminato. Quindi il tema è anche la continuità occupazionale in un settore in cui ci sono ovviamente appalti e cambi di appalto. Esattamente. Un altro tema è quello legato proprio al cambio d'appalto, per cui quando questa attività passa da un'azienda all'altra, noi stiamo costruendo dei meccanismi che garantiscano sia il passaggio dei lavoratori, naturalmente tutti quelli occupati con le condizioni che hanno, ma anche con le situazioni degli accordi che insistono, quindi in questo caso che garantiscono anche la retribuzione per quei lavoratori che non per colpa loro cambiano maglietta, insomma cambiano azienda, e soprattutto che non perdono l'anzianità che avevano avuto, che avevano costruito nel tempo con il rapporto di lavoro precedente. Io la ringrazio. Grazie a voi, buon lavoro. Altrettanto. Arrivederci.